A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La coda è lunga, l'ora di punta e il weekend suona alla porta, come clacson delle auto al semaforo. Il nervosismo aumenta insieme al traffico, quando ecco che è immancabile dal fondo un'auto si stacca, supera tutte le altre. Credi di averla fatta franca, ma un altro automobilista si mette di traverso e non lo fa passare. Seguono gli insulti, i clacson, le voci grosse, qualcuno che minaccia di scendere dall'auto e qualcun altro che parte all'inseguimento. Il più delle volte tutto finisce così, ma sempre più spesso poi la lite degenera e diventa cronaca nera e giudiziaria. La puntata di A ciascuno il suo questa settimana parte da qui, da un semaforo di Milano in via Monterosa, ma potremmo essere quasi ovunque nelle tantissime strade violente d'Italia. Solo che non si può morire per un litigio. E invece succede, e neppure così di rado, soprattutto tra persone al volante. Si litiga per un sorpasso, si picchia per un parcheggio, si insulta dallo specchietto e dal finestrino, e spesso gli sberleffi degenerano in risse col sottofondo dei clacson. Dalla Lombardia alla Sicilia la cronaca è piena di banali litigi al volante che contano poi morti. Cremona, anziano ucciso per il posto da disabile. Roma, litigano per il parcheggio e finisce in tragedia. Un morto. Prima la lite, poi le botte. Nella capitale, grave un 41enne. Caccia al suo aggressore. Rissa per un sorpasso, due ragazzi aggrediti a colpi di crick. Milano, investì e ammazzò un centauro. 16 anni, a un pensionato. La strada riesce a trasformare anche il cosiddetto buon padre di famiglia, la persona più mite, in un soggetto che sa aggredire sorprendendo anche se stesso. Dal tranquillo padre di famiglia al potenziale aggressore, una metamorfosi a cui assiste quotidianamente chi lavora sulle strade, una trasformazione sempre più frequente come registrano le cronache e sempre più trasversale per generi, età e latitudini come contano le statistiche. Così, se da una parte diminuiscono gli incidenti stradali, 211.404 l'anno scorso, con 4.090 vittime, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto al 2009, aumentano nei tribunali i fascicoli per lesioni, quando non omicidi volontari di strada, con un'impennata delle aggressioni agli agenti. Le contano gli amici della polizia stradale guidati da Giordano Biserni. La strada è il terminale dove si scarica a volte una tensione che è quella della vita quotidiana. Amo dire spesso che sulle vetture gli agenti di polizia segnalano tantissimi appassionati di baseball perché sono dotati di le cosiddette mazze per questo sport. Veniamo alle aggressioni agli agenti. Sono in aumento, dove si verificano più spesso? Complessivamente noi già a metà novembre abbiamo registrato 1961 aggressioni. Praticamente abbiamo già quasi raggiunto la cifra totale dello scorso anno. Siamo in una situazione di evoluzione. Al nord abbiamo circa il 35% degli episodi, al centro il 24%, al sud il 41%. Fra gli organi dello Stato più colpiti c'è l'arma dei carabinieri con il 52% delle aggressioni, seguita dalla Polizia di Stato con il 36% e le polizie locali col 10,5%. Nel 33% dei casi il conducente risultava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Pensi, 645 episodi dei 1961 vedevano un conducente aggressivo che ha usato le mani, oggetti per contendere, che è risultato poi ubriaco o sotto l'effetto di droga. Un'altra indicazione è quella dell'utilizzo delle armi improprie o di aggressione nel 22,6% dei casi. Poi c'è una percentuale che deve farci riflettere. Bene, in 742 casi su 1961 l'aggressore è uno straniero, pari al 37,8%. Quindi aggrediscono di più gli stranieri che gli italiani? Aggrediscono tra di più gli uomini o le donne? Assolutamente di più gli uomini, anche per la percentuale di presenza molto più elevata rispetto alle donne, anche se ultimamente, e questo lo vediamo anche nella pirateria stradale, il ruolo della donna si sta modificando. Lei pensi che la pirateria stradale fino al 2008 ci dava un 5, 5,5, 6% di virgolette bandane rosa, oggi siamo già oltre il 10%. 1.200 di bandane rosa, cioè di piratesse della strada, anche nelle aggressioni alle divise, anche se la donna si caratterizza più per un'aggressione verbale che per quella fisica e violenta. Ma proprio gli insulti il più delle volte sono il primo gradino di una rissa che degenera. 1961 dunque, gli episodi violenti contati in questo 2011 solo contro le divise. Ma è da discussioni tra autisti che più spesso sgarbi e litigi si tramutano in coltellate e delitti. Il parcheggio, un sorpasso, una parola di troppo o una frenata improvvisa, come ci racconta un ascoltatore, Matteo, che si è ritrovato, a quanto ci scrive sulla pagina Facebook di Storiacce, circondato da due giganti scesi dall'auto urlando. E troppo spesso le liti sulla strada finiscono con teli bianchi stesi sull'asfalto, come quello che a Cremona ha coperto il corpo senza vita di Guido Gremmi, 76 anni, ucciso perché rivendicava il posto da disabile riservato alla moglie. L'aveva occupato un SUV guidato da un suo quasi coetaneo, Angelo Pelucchi, 72 anni, che prima è scappato, poi si è costituito. Un parcheggio fu la causa della morte a Roma di Aldo Murgia, 45 anni, 20 la pena perché gli sferrò la coltellata fatale. Ercalimero, Massimo Ramoni. A 16 anni invece è stato condannato un pensionato settantenne di Milano, Vittorio Petronella. Inseguì e travolse uno scooter dopo essere stato insultato. La moto era posizionata lì e l'auto lì. Successivamente al semaforo rosso c'è stato un diverbio tra le due persone in cui non si sa bene quale delle due parti abbia iniziato prima a provocare l'altra e quindi sono partiti degli sputi e dei litigi tra di loro. E se queste furono le prime versioni subito dopo i fatti a luglio, così la dinamica è stata ricostruita davanti al giudice, che ha confermato l'omicidio volontario nel giudizio abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena. L'avvocato di parte civile Salvatore Scuto. Tutto nasce da un diverbio, l'automobilista aveva fatto un'inversione a U dove non poteva farla e aveva così tagliato la strada al motociclista, questo è l'antefatto. Quindi una strada tagliata, una lite e il motociclista. La lite non è immediatamente nel luogo dove avviene l'inversione a U, ma è nel semaforo successivo, un alterco vero e proprio nell'ambito del quale il Moser sputa all'automobilista. C'è anche una testimone che riferisce che a sua volta l'automobilista sputa anche egli. Dopodiché scatta il verde al semaforo, il Moser è a bordo dello scooter e lì a quel punto scappa da una corsia di marcia della via Andrea Doria, passa nell'altra corsia di marcia, quindi imbocca la corsia di marcia opposta in senso contrario. L'automobilista fa la stessa cosa, quindi inizia un vero e proprio inseguimento, porta ad una collisione della macchina stessa con lo scooter. Da lì cade il Mosele, poi viene travolto, nel frattempo la macchina continua la sua marcia, l'automobilista ritiene di dover ritornare indietro e nel far questo ripassa sul corpo del povero Mosele e quindi poi si dà alla fuga fermandosi più o meno un centinaio di metri più avanti, insomma è giusto dire che la difesa una battaglia a colpi di perizie e di ricostruzioni chiaramente anche nello specifico del dettaglio, ma al di là della vicenda specifica, gli insulti sono spesso il punto di partenza di liti legate a comportamenti stradali che sono quelli che più spesso degenerano, cioè finisce con l'essere un elemento giudiziario la reazione all'insulto. Sì. Il fatto storico certo e condiviso da tutte le parti è che ci sia stato questo litigio, insomma sfocia in questo gesto sicuramente di grave maleducazione che è lo sputo, e da questo sicuramente si innesta una reazione così forte, così insomma spropositata se vuole rispetto anche a quello che era stato il litigio che comunque insomma era il cosiddetto banale litigio stradale. A ciascuno il suo. Ha fatto allunga il collo. Oh! A guardasi se scassa. Regge il volante. Un papio. Che dici? L'avranno viste? dalle corna di Vittorio Gassman nella famosa scena del sorpasso a tutti i gestacci e insulti ripetuti in ogni istante dalle tantissime auto che girano per l'Italia, da una parola di troppo o una reazione fuori dalle righe ad una lite non più verbale. Da Milano a Roma, da Cremona alla Calabria, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, la cronaca gronda di quelli che inizialmente vengono classificati come banali litigi stradali e che poi finiscono troppo spesso con teli bianchi stesi sull'asfalto o lesioni anche gravissime. ...1961, come abbiamo sentito, sono state le aggressioni in questi 11 mesi del 2011 ai danni solo delle divise, altrettante quelle tra automobili, partiti il più delle volte da un tamponamento, una precedenza negata, un parcheggio conteso, ma poi anche condanne sempre più severe nei tribunali, come conferma Fabio Roia, presidente di sezione al Tribunale di Milano. C'è una tendenza all'aumento di questi casi che hanno una certa aggressività e una certa peculiarità. Per una non stop non dato, piuttosto che un sorpasso azzardato o per altre questioni comunque legate alla circolazione stradale, esplode una violenza anche insidiosa e pericolosa, devo dire, per cui molte volte dalle parole si passa alle vie di fatto e sono numerosi casi di lesioni volontarie che vengono portate all'attenzione del tribunale. Sta diventando la strada una sorta di Piazza dei Toros. Ci sono stati vari episodi anche molto gravi, finiti con contestazioni di omicidio, omicidio anche volontario, una sentenza pesante ha condannato un pensionato a 16 anni per omicidio volontario per aver travolto e ucciso un centauro. Queste aggressioni come avvengono? I casi di cui si è occupato che cosa raccontano? Raccontano di automobilisti che molte volte ricorrono o alle proprie mani o addirittura ad oggetti che sono pertinenziali rispetto all'autovettura. Penso per esempio, non so, al crick che serve per cambiare le gomme, piuttosto che alle dotazioni dei cacciaviti o agli altri oggetti che normalmente vengono dati in uso alla vettura per fare delle sostituzioni di parti meccaniche. Molte volte questi oggetti vengono utilizzati, ovviamente la lesione diventa più pericolosa, tant'è che adesso la circolazione stradale anche per questi motivi può essere un'occasione di pericolo da parte di un utente debole. Da questo punto di vista lei lavora proprio nel Dipartimento per i reati riguardanti proprio le fasce più deboli, notate un aumento dei fascicoli? Sicuramente sì, è un aumento di processi per questo genere di reati e ripeto, le conseguenze a volte possono anche essere con lesioni importanti, quindi oltre 40 giorni di prognosi o con anche con effetti permanenti invalidanti. Conseguenze gravi sicuramente rispetto, diciamo, alle conseguenze fisiche, ma conseguenze gravi anche da un punto di vista giudiziario, anche perché la tendenza è sempre di più quella di ridurre, diciamo, anche le attenuanti dettate dalla provocazione nell'immediatezza del fatto ingiusto altrui. Anche una sentenza della Cassazione del 2010 mi pare che abbia assottigliato i casi in cui questo tipo di attenuante possa essere applicata, quindi anche da un punto di vista giudiziario le conseguenze tendono ad essere ora più pesanti, forse proprio perché aumentano i casi? Sì, anche perché non c'è mai una proporzione fra l'offesa ricevuta e la reazione, perché molte volte è una catena di violenza per cui da un insulto si parte normalmente con una manovra azzardata. Poi l'altra persona tende ad insultare il conducente che ha posto in essere questa manovra azzardata, questi a sua volta o ingiuri o passa addirittura le mani e da lì, come dire, c'è una progressione di violenza che poi non consente di valutare i fatti come proporzionali rispetto all'atto iniziale. Quindi mi sembra di capire che tendono ad essere contestati come lesioni sempre di più volontarie più che colpose. Assolutamente sì. Il problema anche è la futilità del motivo, che è molto preoccupante, perché come ripeto, la strada sembra quasi diventata un'occasione per scatenare una violenza repressa. La strada come un'arena, gli autisti come novelli gladiatori. Caso dopo caso la polizia stradale documenta le conseguenze della rabbia esplosa alla guida. Sono più uomini o donne che si arrabbiano di più? Si arrabbia di più chi guida auto grandi o piccole? Succede più al sud o al nord? Chi si occupa di rielaborare i dati come Francesco Albanese, specializzato in strada e in neuroscienze, come la rivista online che dirige, scandaglia anche i classici luoghi comuni del volante. E questo è l'esito. I nostri studi raccontano che l'autovettura, poi anche la moto, ma l'autovettura in particolare, rappresenta una sorta di carro armato all'interno del quale l'autista si sente più protetto e può in qualche modo affrontare il mondo del traffico. Le vostre statistiche che cosa raccontano? Quali sono le cause che portano alle esplosioni di rabbia che più spesso anche degenerano in episodi anche molto gravi? Il mancarmi la precedenza o lo starmi davanti, impedirmi di passare come un affronto personale al mio ego. E auto più grandi, i SUV, hanno portato ad un aumento di questo tipo di litigiosità legata alle auto, come spesso un luogo comune. È vero, il SUV, tra virgolette, purtroppo, è un qualcosa che realmente somiglia più a un carro armato, è più alto delle altre vetture, sembra più corazzato. È vero che le auto piccole sono più spesso vittime di atteggiamenti un po' arroganti sulla strada? Ma non necessariamente, viene da immaginare che non debba essere necessariamente chi guida l'auto piccola a innescare il problema, ma chi guida l'auto grande che si vede fare un affronto da un'auto piccola, più o meno coscientemente dice: ma te, piccola pulce, come ti permetti? Divenuta dunque pericolosa miscela di soprusi, insulti e reazioni, la strada è in realtà sinonimo per antonomasia di viaggio e di libertà, una delle più classiche metafore letterarie, simbolo anche di un'intera generazione come la Beat Generation, che si plasmò con le parole di John Kerouac sulla strada. E allora la tradizionale chiusura letteraria di A ciascuno il suo questa settimana è con un classico americano raccontato così dalla grande Fernanda Pivano. È il mito che, esaltando questa immagine dell'energia vitale e della spontaneità nell'arte e nella vita, ha cambiato una generazione, che ricordiamoci che la generazione degli anni 50 e 60 è stata proprio ispirata da questo libro. È cominciato l'autostop, è cominciato il sacco a pelo, è cominciato questo vivere alla giornata, non sapere mai che cosa si farà domani, questo senso soprattutto basato sulla energia vitale. Questo è stato il senso del libro. E mi ricordo che quando gli ho chiesto che cosa intendeva lui per autostop, il famoso cross country, ma dice no, la gente dice credeva che io volessi risparmiare i soldi, non era mica per i soldi, si conosceva la gente, si saliva sulla macchina, si conosceva la gente. Il grande sogno di quel decennio di comunicare, di togliersi da qualsiasi tipo di condizionamento, di comunicare con le persone sconosciute, di amare persone sconosciute. Questo era il suo autostop, e così lui ha attraversato l'America con tutte le avventure, gli ha dato proprio questo senso di energia vitale, di slancio continuo. Termina qui questa puntata di A ciascuno il suo. Come sempre vi ricordo che potete riascoltarla e scaricarla dal sito radio24.it nella sezione podcast. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.